Europa 24. Sono le 14, un saluto da Gigi Donelli. Dunque, le notizie europee, questa mattina ce n'è una importante che arriva dal fronte della Corte UE e che di fatto condanna l'Italia a prendere delle misure, a costruire un quadro normativo legislativo per le coppie omosessuali e a tutela dei loro diritti. L'Italia deve introdurre il riconoscimento legale per le unioni tra persone dello stesso sesso, dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che stabilisce all'unanimità che appunto il nostro paese viola la Convenzione Europea dei Diritti Umani, non tutelando i diritti delle coppie omosessuali. Secondo i giudici di Strasburgo, l'Italia non rispetta l'articolo 8 della Convenzione relativo al rispetto della vita privata e familiare, perché nel suo ordinamento non prevede alcun tipo di riconoscimento legale per le coppie gay. La Corte rileva che la legislazione italiana non solo non soddisfa le necessità fondamentali di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è neppure sufficientemente affidabile. Per la Corte, dunque, un'unione civile o una partnership registrata sarebbe il modo più adeguato per riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso. Il giudizio nasce dal ricorso di tre coppie italiane, tre coppie omosessuali, che avevano tentato di chiedere il nulla osta per il matrimonio in Italia, ma se l'erano visto respingere. La Corte sottolinea che tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa c'è la tendenza a riconoscere i matrimoni omosessuali, con 24 su 47 Stati, Consiglio d'Europa, che va ben oltre evidentemente i 28 dell'Unione. Insomma, un'ulteriore spinta per l'Italia in una direzione che è tanto dibattuta, ma che ancora non trova una soluzione. Cambiamo argomento, saranno redistribuiti circa 32.000 migranti di quelli presenti in Italia e Grecia e non 35.000, quanto precisano Commissione Presidenza UE rispetto alle cifre fatte circolare nel pomeriggio di ieri. Il gap di ricollocamenti di migranti da Italia e Grecia, che resta da colmare entro fine anno, precisano le fonti, è infatti di circa 8.000 persone. Questo perché i reinsediamenti disponibili rispetto all'obiettivo di 20.000 sono 24.500, non 22.500. Insomma, una decisione, quella di ieri, che non soddisfa in termini numerici, ma sicuramente cambia o inizia a cambiare una posizione che storicamente e sulla base degli accordi di Dublino fa sì che, secondo la legge europea, è cura dello stato di primo arrivo, quindi del richiedente asilo, occuparsene. Ora, come sapete, l'Italia ha chiesto invece all'Europa di condividere il fardello di questo fenomeno migratorio, e questa decisione, con tutti i limiti, rappresenta un chiaro cambiamento rispetto al principio precedente. E infine, l'Europa ha un suo servizio diplomatico, non è conosciuto, ogni tanto emerge, soprattutto quando, come è accaduto nei giorni scorsi, c'è chi dice che spende troppo il servizio. Per il britannico Daily Telegraph, il SEAE, l'organo diplomatico che sostiene l'Unione Europea nelle sue relazioni con il resto del mondo, spende troppo. Il quotidiano inglese parla di 3 milioni di euro in servizi di piatti, porcellane, bicchieri di cristallo e posate d'argento usati nei banchetti e ricevimenti a Bruxelles e nelle altre 140 delegazioni all'estero. L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, risponde con un tweet: 3 milioni è il tetto massimo di spesa in 4 anni, un risparmio rispetto al passato. Ma cos'è il servizio europeo per l'azione esterna? Ce lo spiega Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali. È un corpo diplomatico che riunisce personale dalla Commissione, dal Segretariato del Consiglio dell'Unione Europea e dai servizi diplomatici nazionali, e si occupa di tutta l'azione esterna dell'Unione Europea. In particolare assiste l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza nello svolgimento del suo mandato. Un'istituzione giovane che ha assunto un ruolo più importante negli ultimi anni, dice sempre l'esperta. Sono state promosse alcune azioni in ambito Nazioni Unite e alcune iniziative diplomatiche che cominciano a far sembrare il servizio come qualcosa di veramente utile e anche un valore aggiunto per gli Stati membri. Per quanto riguarda i costi, i conti del SEAE sono stati oggetto di discussione a livello europeo. Alla fine si è arrivati a un bilancio non così spropositato rispetto ai servizi diplomatici dei vari paesi, sottolinea l'Istituto Affari Internazionali. Livia Zancanera, Radio 24, Sole 24 Ore. E con questo è tutto per oggi, e naturalmente Europa 24 torna come di consueto stasera intorno alle 21.30 e domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.